Ben fatto! Il piano sta funzionando. Le anguille se ne stanno andando. Mago trascina il dito sullo schermo per lanciare la chiave.